Un saluto a tutti da Loop di Mare. In questo podcast siamo alle prese con Johann Sebastian Bach ed un suo famoso corale, e cioè Jesus bleibet meine Freunde, che costituisce il finale della cantata numero 147, intitolata Herz und Mund und Tat und Leben. Ascoltiamola nella versione originale. Ed ora nell'esecuzione vocale giazzata del gruppo Swingle Singers. Thank you. col titolo La marcia dei fiori è qui eseguita da un coro di bambini. L'idea è di Vinicius de Moraes, che aveva fatto un disco per bambini intitolato L'Arca di Noè. La versione italiana, curata da Sergio Bardotti, aveva come ospiti Sergio Endrigo, che cantava La casa, e poi Marisa Sannia e I ricchi e i poveri. Due versioni jazz della cantata. La prima è opera del pianista Jacques Lussier, esperto in trasformazioni jazz di opere di Bach, mentre la seconda, di cui trasmettiamo solo la parte improvvisata finale, vede all'opera il pianista Kenny Barron ed il bassista Ron Carter. Thank you. chiudiamo con una versione molto lontana dall'originale, eseguita dal gruppo vocale giapponese Omodaka. Say